Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non ce l'ha fatta la bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un cane mentre giocava nel giardino della villetta della zia a San Martino al Tagliamento in provincia di Pordenone. Si chiamava Astrid la bimba ed era andata con la mamma a trovare la zia materna, proprietaria di un pastore tedesco. La bambina al momento dell'aggressione, avvenuta per motivi ancora inspiegabili sui quali stanno indagando i carabinieri, stava giocando in giardino con la cuginetta. Sono state le grida di quest'ultima a richiamare gli adulti, che hanno subito bloccato l'animale rinchiudendolo in una gabbia e chiamando i soccorsi. Una tragedia che ha spinto il Codacons a rilanciare la richiesta di un patentino obbligatorio per i proprietari di cani potenziali. È una tragedia familiare incommensurabile e inimmaginabile. Una bambina sgozzata da un cane, perché avviene in un ambito domestico, in un ambito imprevedibile, perché un cane è in molti casi un essere destinato alla salvaguardia, alla protezione dei bambini. Ma è accaduto e ogni tanto accade, non dico che accada spessissimo. Tanto più accade, tanto più è diffusa la tendenza e la passione di tenere cani da compagnia o cani da guardia o cani da giardino. Rispetto agli anni passati, gli italiani hanno molti più cani. È molto più frequente avere cani. La scelta di avere un cane si è personalizzata. Non è più nemmeno considerato se non un membro stesso della famiglia. C'è un merchandising, un mercato immenso attorno all'allevamento dei cani. Chiunque può acquistare cani, ma ci sono cani e cani. In questo caso, poi entriamo nello specifico, questo era un cane tranquillissimo, non ha dato nessun segno di essere molesto o aggressivo. Capiremo quale potrebbe essere il meccanismo per cui un cane tranquillissimo si ribella in questa maniera nei confronti di un essere umano e morde e azzanna una bambina. Ripeto, non è il primo caso e nemmeno voglio gettare allarmismo che improvvisamente c'è l'emergenza cani, ma c'è probabilmente bisogno di fare un po' attenzione a chi detiene e gestisce certi tipi di cani che potenzialmente potrebbero essere pericolosi, e su questo vorrei questa mattina interrogarmi con i miei ascoltatori. 800 24 00 24. Emergenza cani, nuova aggressione a Parma. Un bambino di 7 anni azzannato alla testa e al volto dal cane della zia. L'ultima vittima è una turista tedesca di 24 anni, azzannata dall'ennesimo branco di cani randagi e ridotta in gravi condizioni. Catturati i cani randagi che hanno ucciso un bambino e ridotto in fin di vita una turista tedesca nel Ragusano. Una femmina è il capobranco, ora si decide la loro sorte. A Scicli continua la caccia al branco che ha ucciso un bimbo. Queste sono vecchie notizie e attengono un'altra fetta di questo problema. I cani domestici che diventano randagi, perché? Perché vengono abbandonati, perché la gente li prende e poi li lascia, perché comunque non esiste una cura e un'attenzione sufficiente a certe latitudini in certi posti per impedire che vengano lasciati liberi nel territorio animali che, una volta abbandonate, diciamo, le minime attenzioni che ha l'essere umano che li ha addestrati, che li alleva, ritornano a uno stato ferino, come d'altronde la loro natura. Anche noi potremmo diventare selvaggi, essere capaci di tutto. I cani abbandonati, i cani randagi, in molti casi sono un pericolo. 800 24 00 24. Manuel Codo, buongiorno. Sì, buongiorno. È istruttore cinofilo della Dog Planet di Imola. Innanzitutto, esatto. Per quanto possibile, senza entrare nello specifico del fatto di cui non conosciamo assolutamente le circostanze e gli effetti, quando accade che un cane che non dà mai nessun segno di aggressività può diventare improvvisamente aggressivo? Allora, come diceva lei, è difficile innanzitutto entrare nel merito, proprio perché le indagini sono ancora in corso e collaborando noi anche con le ASL e recuperando anche questo tipo di cani a seguito di queste avventure, disavventure, sappiamo per certo che è veramente difficile ricostruire, quindi starei molto più sul generico. Per rispondere alla sua domanda, possono essere tantissime le cause. Sicuramente una cosa fondamentale è quella di iniziare a capire che il cane non è, pur facendo parte della nostra famiglia, non è un essere umano e quindi necessita di attenzioni e di una gestione completamente differente. E dall'altra parte dobbiamo assolutamente sempre tenere in considerazione che, per quanto un cane possa essere in taluni casi estremamente docile, è comunque un animale e quindi imprevedibile. Sa perché è importante quello che dice lei? Perché oggi io sono nato in campagna, premetto, ho sempre avuto cani da bambino, ma avevamo delle ampie distese in cui potevamo permettercelo. Ho provato a tenere i cani in appartamento, ma non sono riuscito a farli convivere. Poi con i figli, hanno cominciato a nascere i figli, ho rinunciato ai cani. L'ho fatto anche volentieri perché preferivo allevare figli. Oggi c'è una coscienza della gestione di un animale domestico che va a collimare con quella che molte volte diventa quasi una filosofia, non voglio dire una religione, e si dimentica in realtà l'essenza dell'animale. L'animale, ha detto lei, non è un essere umano. L'animale è tale perché nasce animale, l'animale diventa animale domestico perché noi lo addestriamo, noi diamo a lui degli strumenti di convivenza con noi esseri umani. È importante tenere a mente questo principio? Guardi, fondamentalmente quello che dice lei è assolutamente vero. I cani si sono spostati lentamente dalle campagne alle città. E quello che stiamo perdendo probabilmente di vista è il fatto che il cane nasce prima di tutto come animale utile. I nostri nonni lo utilizzavano per certo. I greggi, per la guardia. Anche sorvegliare il pagliaio, il cane da pagliaio, che era l'ultimo nella catena degli animali domestici, aveva la sua funzione, che non andassero di notte a rubare la paglia. Questo non significa che non possa vivere poi, non possa essere spostato in un ambiente domestico e non possa integrarsi e interagire correttamente con un ambiente urbano, ma dall'altra parte dobbiamo anche pensare che spostare questo tipo di attività comporta anche una forma educativa differente, sia per il cane, perché anche il cane va educato esattamente come un bambino, sia per le persone che detengono il cane. Un errore che mi sento di poter affermare con franchezza nella purtroppo vicenda che è accaduta ieri è proprio il fatto che io da istruttore e mia moglie da istruttrice, siamo entrambi due professionisti, non lasceremo mai nemmeno uno dei nostri cani da solo con un bambino di 3 anni. Ecco, questa è la prima regola. Mi dicevano i miei nonni: non toccare mai gli animali mentre mangiano, quindi non dare mai la carezzina al cane mentre mangia, perché quello è un momento per lui delicato. Sentiamo Diego velocemente. Diego, buongiorno. Buongiorno, spenga, sono Diego da Carpi. Spenga buongiorno. Sì, l'ho spento, scusate. Sì. Niente, io volevo parlare della mia esperienza personale. Io ho una bimba di 2 anni. E ho deciso con la mia compagna di prendere anche un cane. Ho sempre avuto cani, abbiamo valutato bene la situazione. Io penso che sia anche molto importante al momento in cui si vuole far convivere un cane con dei bambini, la scelta del cane stesso, cioè nel senso che ci sono cani selezionati più docili, più diciamo più abituati anche dalla selezione, dalla loro razza, a vivere in ambienti quali appartamenti con altri animali o con bambini piccoli. Però comunque non lascerei mai il cane, seppure un cane di piccola taglia, perché è un bulldog francese, incustodito con un bambino. Cioè, dal ruggito sembra un leone, però. Sì, dal ruggito sembra un leone, anche dall'aspetto, però in realtà sono cani veramente... Io, diciamo, nella mia esperienza non ho mai sentito di attacchi da parte di questi cani, però rimangono. In questo caso cani. La bambina non era un cane proprio di famiglia, era in visita da una zia, e sì. mentre i genitori o che sì, per loro erano certo, occupati. Però a quanto ho capito diciamo che la bambina è rimasta per un breve, seppur breve periodo, incustodita con un cane certo. Che è un pastore tedesco, che è comunque un cane lupo, è un cane potenzialmente pericoloso proprio per la stazza, non tanto per l'indole, perché comunque i pastori tedeschi sono buonissimi e tutto quanto, però per la stazza, se succede l'imponderabile, cioè che questo cane per qualunque motivo possa attaccare, è un cane che può portare a una tragedia, mentre magari un chihuahua magari ti può attaccare, perché spesso i chihuahua sono anche aggressivi, però magari il chihuahua te la cavi con qualche cerottino, mentre se ti attacca un pastore tedesco purtroppo può capitare la tragedia. Io penso che i bambini con i cani ci possono stare e imparano moltissimo. Cioè nel senso che secondo me stanno benissimo insieme, però sempre sotto la supervisione comunque di qualcuno, perché sennò si rischia poi, adesso io non sono disperato per quella bambina e probabilmente anche quel cane andrà incontro alla morte e si rischiano queste tragedie di rovinare le famiglie. Cioè, per tutte le persone che hanno cani, secondo me la cosa principale è tenere sempre sotto sorveglianza i propri animali con i bambini propri o degli altri. Ma perché, scusi, Manuel Codoli, l'istruttore cinofilo della Dog Planet, il cane che azzanna poi viene abbattuto? No, allora... Qual è la procedura? Volevo fare una piccola precisazione su quello che ha detto l'ascoltatore. La prima cosa è che non possiamo parlare di razze, per quanto giustamente le caratteristiche della razza siano state selezionate nel tempo, credo che sia sbagliato in questo momento, anche se la cosa più facile è iniziare a discriminare delle razze e fare degli allarmismi differenti. Ogni cane, ovviamente per mole, ha delle potenziali e inevitabilmente i potenziali nel momento della morsicatura possono fare la differenza, ma credo che sia sbagliato lanciare questo tipo di messaggio. Anche un barboncino che azzanna la faccia dell'amichetto di vostro figlio può creare un danno serio, come togliere un occhio. Quindi, ma io avevo uno Scottish Terrier che è alto 30 centimetri, ho dovuto allontanarlo da casa perché mi morsicava i figli quotidianamente. Quindi voglio dire, è giustissimo il concetto della mole, perché il potenziale si basa poi su quello, ma non farei un concetto di razze proprio per evitare un allarmismo su una razza piuttosto che un'altra. Tra l'altro su diversi articoli si parla di pastore tedesco, su altri di pastore belga, quindi fondamentalmente, non essendo ancora chiara la vicenda, eviterei questa forma. No, ma io lasciamo perdere che tipo di cane fosse, io direi che ci sono dei sistemi. Assolutamente. Dovremmo trattare i cani come una unica grande specie con le quali bisogna comunque fare alcuni patti e avere alcune regole. La cosa fondamentale è appunto il concetto di regole. Lei ha detto, secondo me, il termine giusto, il termine corretto. Credo che ci sia, secondo me, da regolarizzare un paio di cose. La prima è fare come in diversi paesi del resto del mondo, a noi anche molto vicini, dove chiunque voglia tenere un cane debba dimostrare di saperlo gestire. Questo a prescindere che possa essere un cane di piccola taglia o di grande taglia. Poi, questo responsabilizza anche il cosiddetto fenomeno dell'abbandono, della passione momentanea. Assolutamente, ci sono diversi paesi in Europa che ad esempio fanno pagare una tassa di proprietà per il cane, in modo da iniziare a sensibilizzare un pochettino le famiglie a quale sia la gestione e a quale sia l'impegno di avere un cane. Dall'altra parte poi ci sono cani che per mole possono o per caratteristiche di razza possono avere dei potenziali differenti che ai quali devono stare ancora delle regole ancora più restrittive, o comunque a dimostrare che il loro cane è sotto controllo attraverso degli esami specifici dal punto di vista statale. Quindi si parlava prima in apertura di programma di patentino, questa è assolutamente una condizione che credo che tutti dovrebbero essere d'accordo. Allora, Manuel Cordo, devo pregarla un attimo solo, devo dare le informazioni del traffico. Sta entrando in un argomento molto interessante, anche perché avremo un secondo ospite fra qualche istante, che parleremo proprio di questo patentino. Chi gestisce un cane deve dimostrare che è in grado di gestire quel cane, per il bene suo, per il bene dell'animale, per il bene delle altre persone che non devono essere esposte comunque a un cane mal gestito. Mi ricordo una campagna elettorale nemmeno troppo lontana in cui un politico promise demagogicamente cani a tutti i pensionati con cibo gratis perché il pensionato ha bisogno del cane. Sì, però valgono le regole, sta dicendo il nostro gentile ospite. Un cane non è come tenersi in casa un peluche, è comunque un essere che ha una sua volontà e una sua caratteristica. A tra pochissimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Un assalto improvviso, furioso, scattato con violenza inaudita, senza alcun motivo apparente. Parliamo dell'attacco portato sabato scorso da un dogo argentino di 2 anni ai danni di una donna di 64, residente a Cotrebia di Calendasco, ricoverata da sabato all'ospedale di Piacenza. Ferite lacero contuse in più parti del corpo, anche al capo. Dopo 800240024, stiamo parlando dei vecchi, antichi e sani principi che dovrebbe chiunque abbia un cane conoscere. I miei ascoltatori mi scrivono sms, sono tutti estremamente competenti, basta con queste panzane, non esistono cani docili, oppure ho allevato i miei figli con un Doberman, non c'è mai stato segno di squilibrio. Poi un altro dice, dite stupidaggini, ma hai sentito dire di un Labrador che morde? Non lo so, io non ho l'anagrafe di tutti i Labrador del mondo per sapere se qualcuno ha morso. Ma adesso mi interessa entrare più in maniera approfondita a un tema che è stato lambito dal nostro ospite, che ricordo un istruttore cinofili. Avvocato Carlo Rienzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Presidente del Codacons, vi siete posti anche voi il problema che abbiamo toccato con il nostro ospite di dare una sorta di attestato di abilitazione a chi possiede un cane? Ma innanzitutto mi sembra che sia strano che vi meravigliate che possano succedere queste cose quando... No, a me non mi meraviglia nulla, manco se scendessero gli UFO. Mi sembra, la registro. Ma il cane era docile, cioè, io non ho mai detto docile. Gente, non so chi l'ha detto. No, no, c'ha scritto, dice, un cane non aveva morso nessuno. Vabbè, allora mi faccia dire, però la gente praticamente ammazza il vicino di casa per motivi condominiali. Certo. C'è chi poi ammazza i figli perché esce pazzo. Cioè, ma perché l'uomo può fare queste cose e le fa continuamente, ed è una tragedia ovviamente, e non si pensa che il cane ha gli stessi problemi? Cioè, può capitare che un cane sta male un giorno o sta male e emerge questo suo male quel giorno e fa quello che ha fatto. Quindi non è da meravigliarsi. Il problema è che una persona col cervello in testa non può lasciare nel suo giardino un cane con un bambino di 3 anni, ma per il semplice fatto che il bambino stesso, poverino, che non è in grado di rapportarsi a un cane, cioè non è in grado di capire che se allunga la mano e l'allunga in modo troppo velocemente, e il cane ha paura e può avere una reazione che è data da una capacità di intendere ovviamente limitata. Si difende. Allora, è la persona proprietaria del cane che deve essere educato, deve avere il patentino, deve sapere come tenerlo. Ma voi avete una proposta, avvocato, una proposta precisa come Codacons? Siete pensato qualcosa che ancora non esiste? Sì, abbiamo pensato a un patentino che faccia un corso di istruzione ma approfondito, solo che si fanno queste cose, già c'era stato un provvedimento di questo genere, ma non ci sono le sanzioni, cioè quindi se poi uno il patentino non lo fa, o se non porta il cane senza guinzaglio, col guinzaglio, o se non lo porta legato, nessuno lo punisce. Ma lei ha mai visto fare una contravvenzione a un padrone di un cane sfrenato in un parco da un vigile? A parte che i vigili non ci stanno proprio. Le dirò, avvocato Renzi, siccome più o meno stazioniamo dalla stessa parte nello stesso quartiere, provi a dire a uno di quei signori con i cani sguinzagliati per i giardinetti di Viale Mazzini, tiello al guinzaglio, minimo ti dà una catenata in faccia. No, perché... capito, ma io non sono un vigile, ma con lei, però se noi avessimo un controllo, il nostro paese è un paese senza controlli, allora voglia fare norme, leggi, patentini, obblighi, eccetera, se poi nessuno li fa rispettare, poi hanno vietato il fumo nei parchi, ma a me mi fa ridere, il fumo è una cosa gravissima e pesantissima e pericolosissima, ma mi dice il sindaco Marino, chi mai farà una multa a un fumatore in un parco? Cioè, ci vendono per i fondelli, questo è il nostro paese. E questo patentino come dovrebbe essere strutturato? Chi dovrebbe concederlo? Chi dovrebbe darlo? Non può essere, scusi, imposto al momento dell'acquisto di un cane. Come io non posso avere una pistola se non ho un porto d'armi, certo, sì, e non posso comprare un cane se non ho dimostrato che sono in grado di mantenerlo. Sì, non perché il cane sia un'arma, c'è una particolare difficoltà. Mentre l'umano, diciamo, nessuno lo può controllare dopo i 18 anni perché il maggiorenne fa quello che gli pare e se impazzisce ammazza, pazienza. Il cane invece è sempre controllabile perché ha un padrone. Ora si tratta di affidare alle ASL veterinarie, che ce ne sono dappertutto, delle possibilità di fare dei corsi di istruzione, ma verificare che poi queste persone siano capaci, intendano e capiscono e facciano cosa deve fare e dare questo patentino. È una cosa semplicissima, ma a vedere non ci sono i soldi, le ASL non sono in grado manco di andare a vedere le vacche che mangiano le schifezze, di andare a fare i controlli negli allevamenti. E allora io sono sempre così un po' disperato di fronte a queste lodevoli iniziative che prendete anche voi come radio di sollevare dei problemi. I problemi è inutile sollevarli nel nostro paese, perché poi nessuno è in grado di tenere dietro a questi problemi. Ci sono molti ascoltatori che vorrebbero dire la loro, c'è Renato che è un addestratore di cani, ci sono razze che hanno propensione a difesa del territorio, altre razze sono sicuramente meno aggressive. Massimo dice cani bisogna dare poche regole, ma ben chiare. Poi volevo far concludere all'istruttore cinofilo della Dog Planet di Imola, Manuel Codo. Alla base di tutto questo, ci sono episodi in cui un cane sarebbe meglio, diciamo, avere delle precauzioni particolari. L'altro fenomeno che abbiamo soltanto toccato è quello del cane veramente aggressivo, del cane a difesa, del cane che si vede che è un cane addestrato per essere cattivo, però portato a spasso ai giardinetti come se fosse un barboncino. Dunque, bella domanda. Il ragionamento secondo me dovrebbe essere un filino più ampio. La base fondamentale è quella di pensare che il cane è solo una piccola parte di tutto ciò che poi alla fine accade. Dall'altra parte del guinzaglio comunque c'è un proprietario, e un'altra cosa che bisogna valutare è l'ambiente. Noi non possiamo neanche pensare che tipo di reazione può dare un cane ad esempio davanti a un rumore improvviso al quale non si è mai proposto. Mi viene in mente il classico pallone palloncino che esplode nel giardinetto e il cane lì può spaventarsi e dare allora, guardi, Manuel Collo, siccome siamo arrivati in conclusione, se no si lascia Italia, vorrei ritornare con lei e faremo proprio un si prepari un decalogo per il gestore di cane, perché non sia un pericolo per gli altri. Alla prossima.